Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Buon pomeriggio e benvenuti. Luca Tremolada al microfono, Sandro Mangiaterra davanti a lui. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Oggi puntatona, la rivoluzione bianca dedicata alla cucina, dedicata agli elettrodomestici, un business antichissimo. Un business che ovviamente nasce molto antico, la prima lavatrice pare che risalga a metà dell'Ottocento, penso. Però che, come sappiamo, ha avuto la sua consacrazione dagli anni 50 in avanti, no? Nel 56, no? La mitica rivista Life incoronava l'elettrodomestico come il grande protagonista. Esatto, dopo l'auto, no? Dopo la rivoluzione dell'automobile, c'era la rivoluzione nella casa con gli elettrodomestici, e Life fece una copertina dedicata alla lavatrice. Ecco, che poi avrebbe cambiato la vita delle donne americane, delle casalinghe americane. Poi c'è stato il boom degli elettrodomestici, gli anni 50 sono entrati nelle nostre case. Una crescita continua per 50 anni, pensa Luca, fino all'anno scorso. Ecco, lì è successo qualche cosa. È successo un bel patatrac, perché la crisi mondiale ha colpito molto il settore degli elettrodomestici. Intorno al 15-20% è meno la media mondiale del settore. Ecco, e che cosa succede quando i numeri diventano negativi? Succede che ci sono grandi ristrutturazioni aziendali, insomma ci sono problemi nelle fabbriche, e eccesso di produzione, grandi problemi industriali, ma soprattutto si punta sull'innovazione, perché se non c'è l'innovazione sei finito. Noi che siamo cattivi, cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiesto un confronto all'americana. Esatto, un bel faccia a faccia sul modello televisivo americano. Noi lo facciamo in radio. Esatto, noi lo facciamo in radio e abbiamo portato qui i capi della ricerca di Indesit e Whirlpool. Esattamente, per vedere che cosa stanno facendo per non continuare a prendere, lo dico, bastonate insomma dal mercato. Allora, come è stato l'ultimo anno. Abbiamo qui con noi Barbara Borra, che è vicepresidente Global Cooking del gruppo Whirlpool. Whirlpool. Non ce la posso fare, però ci provo. Ce la proviamo. E Adriano Mencarini, direttore innovazione digital design di Indesit Company. Penso che gli dicevano Indesit. Indesit è proprio italiana. Buongiorno. Allora, mandiamo subito le due schede dei nostri protagonisti, che insomma si confronteranno all'americana. Alla Whirlpool hanno battezzato il progetto con un nome che non ammette equivoci: Green Kitchen. La cucina ecosostenibile è in grado di massimizzare il risparmio energetico e minimizzare l'impatto sull'ambiente. Il più grande produttore mondiale degli elettrodomestici è anche un gigante dell'innovazione, cui riserva ormai il 3% dei 19 miliardi di dollari di fatturato globale e 850 ricercatori, di cui 300 con sede in Italia. Barbara Borra, 49 anni, nella sua veste di vicepresidente Global Cooking, ha seguito tutte le 1500 idee messe in campo dalla Whirlpool negli ultimi 5 anni, che hanno dato vita a 350 nuovi progetti, non solo legati al rispetto ambientale. Uno dei risultati più importanti, per esempio, è stato il lancio del Sesto Senso, un sistema che agevola l'utilizzazione dei prodotti, perché per il consumatore facile è bello. La sua specializzazione sono le tecnologie digitali. Non a caso, Adriano Mencarini è entrato alla Indesit nel 1994 come preparatore di software. Oggi, a 42 anni, è direttore del Dipartimento Innovazione e Digital Design del Colosso di Fabriano. 3,2 miliardi di euro di fatturato, l'85% sui mercati internazionali, 17.000 dipendenti, di cui 5.500 in Italia. Mencarini è lo scienziato dal quale passano tutte le idee per il futuro di Indesit Company. Da quando è scoppiata la crisi, il gruppo ha moltiplicato gli sforzi sul versante dell'innovazione. Gli investimenti sono passati nel 2008 da 35 a 45 milioni e i 580 addetti impegnati nella ricerca e sviluppo lavorano a ciclo continuo per sfornare nuovi prodotti. Dal gioiello di famiglia, la Virtual Reality Room, una mega stanza di realtà virtuale, sono già usciti progetti dal nome evocativo: Efesto, Gravity, Sofius. Obiettivo: migliorare la qualità della vita, proprio come hanno fatto i primi elettrodomestici, ma con una nuova sensibilità per il rispetto dell'ambiente. Allora, la puntata è chiara. Che cosa entrerà nella cucina del futuro? Andiamo a vedere nei laboratori e chiediamo anche agli ascoltatori, che ci possono chiamare all'824 0024, insomma, di chiamare e di chiedere quello che vogliono in casa. Se vogliono più tasti, meno tasti, più digitale, meno digitale, una pentola che parla, una pentola che sta zitta, la pentola che si autocucina. Esatto, se l'obiettivo è quello davvero di migliorare la qualità della vita in casa, vediamo come vorrebbero gli ascoltatori che i due giganti Whirlpool l'hai detto, e Indesit gliela migliorassero davvero. Insomma, io partirei dalla dottoressa Borra. Dottoressa Borra, allora, Global Cooking, ci dica subito, perché a me interessa moltissimo, quando nascerà la cucina che fa tutto lei, che io faccio la spesa all'esse lunga, metto in freezer e gli dico la sera vorrei oggi una fiorentina, alla Blade, la cucina prende, disgela, la mette in forno, basta, io accendo il telegiornale e poi mi chiama Sandro, è pronto. Beh, questi concetti di pilotare tutto a distanza esistono. Esempio, stiamo già realizzando in fase sperimentale dei sistemi in cui si legge nel frigorifero che cosa manca, che manda elettronicamente il messaggio al supermercato che fa arrivare la spesa. Quindi ci sono questi cicli, ecco, e nella cottura legge cosa significa, perché poi deve sapere che sia io che Mangiatella siamo due malati di tecnologia, per cui cioè, non è che ci dice una cosa legge e noi ci andiamo su piatti. Dove lo leggiamo? Evidentemente se io prendo la mia caciotta, cioè lui sente la mancanza della mia caciotta dal frigo, no? Legge su delle abitudini, e più o meno lo stesso principio che utilizziamo anche nella cottura, no? Per esempio decidiamo che vogliamo cucinare in un certo forno un pezzo di carne, dobbiamo dare il peso, dobbiamo dare per esempio il punto desiderato di cottura, e con algoritmi si riesce a produrre la cottura che desideriamo. Certo. Esempio, questo è già realtà, è un prodotto che stiamo introducendo adesso nel mercato americano e poi nel mercato europeo con questa interfaccia di alto valore aggiunto, in cui a partire dalla fotografia si sceglie il punto di cottura desiderato, si schiaccia e dice lo voglio così. Quindi c'è il mio ciambellone, cioè io gli faccio vedere la foto del ciambellone alto giusto e lui capisce. Sì, bisogna che questo programma sia certo, incluso, però diciamo che questo è un primo step. Noi proponiamo certe ricette e nel futuro si può immaginare che con una USB key aggiungiamo altre ricette che sono personalizzate, che sono... Ecco, è una cosa del genere per Nababbi. Beh, io direi da Nababbi. Noi sappiamo che l'innovazione, anche per esigenze di profitto per gli azionisti, viene posizionata prima a un punto alto e poi viene progressivamente democratizzata. L'abbiamo visto in tutti i campi. Giusto, no? Appunto, anche con le lavatrici, per esempio. Per esempio, insomma, le lavatrici adesso sappiamo che hanno una penetrazione in tutti i mercati, diciamo western, adesso, mercati sviluppati, ha una penetrazione più alta del 90%. Quindi c'è questo effetto di democratizzazione, di riduzione anche dei costi per il consumatore finale. Ma quindi lei ci sta dicendo che la cucina che fa tutto lei, che schiacci un bottone o gli dai un comando vocale e fa tutto lei, beh, nascerà, sta per arrivare nelle nostre case, arriverà nelle nostre case. Ci sono i primi semi. Guarda che c'è Indesit che non sta più nella sedia, sta scalpitando, lo sto vedendo. Allora Mencarini, ci dica subito, arriva prima Whirlpool o arriva prima Indesit sulla cucina che fa... No, è Whirlpool. Whirlpool. Sulla cucina che fa tutto lei. Ma ovviamente arriverà prima Indesit. No, però no, a parte le battute, prima della puntata, no, non facciamo. No, a parte le battute, anche noi ovviamente stiamo lavorando avendo clienti che sono molto simili, perché comunque abbiamo i clienti che stanno nelle case, stiamo lavorando su concetti simili, ma ad esempio stiamo lavorando su il concetto di smart tag o RFID applicato agli elettrodomestici. L'RFID è un'etichetta intelligente che progressivamente dovrà sostituire, nella nostra visione, il codice a barre, trasportando informazioni che sono praticamente tutte le informazioni che sono disponibili, ad esempio, sul pollo che noi mettiamo in frigorifero, il suo peso piuttosto che la sua data di scadenza, per cui il frigorifero riuscirà ad informarci che lo yogurt sta scadendo, oppure ci informerà quando siamo al supermercato che all'interno del nostro frigorifero manca qualcosa di cui abbiamo bisogno. Tutti noi, vivendo da single, abbiamo sperimentato che poi compriamo sempre le solite cose e le mettiamo in frigorifero e abbiamo quelle 18 vasetti di yogurt che andranno in scadenza. Domani potremo consultare direttamente dal supermercato con uno smartphone qualsiasi quello che è all'interno del nostro frigorifero, comprando quello di cui effettivamente abbiamo bisogno. Oppure il nostro frigorifero ci dirà quello che sta in scadenza e magari ci consiglierà la ricetta che può essere composta con quello che è in scadenza, evitando sprechi. Allora, due risposte al volo. Una, mangia terra da Pavia, Luigi. A me piace cucinare, non voglio che la cucina faccia tutto lei. Questo qua, solo un ascoltatore, ma c'è anche un Mi inviti. Aspetto un invito. Occhio che mangia terra la buona forchetta. Giorgio Noliani, un altro ascoltatore, ci scrive: vorrei pentole antiaderenti per piastre a induzione. Oddio. Ah, tutte e due bloccati. Beh, poi è una richiesta lecita. Sul piano induzione, ad esempio, stiamo lavorando sulla possibilità di cuocere con tutte i materiali di pentola. E questa è una linea di innovazione che stiamo tenendo. Ovviamente è una linea di ricerca abbastanza complessa. Così come stiamo lavorando su piani ad induzione che chiamiamo Total Active, cioè sulla possibilità un domani di avere la possibilità, ovunque appoggio la mia pentola, di cucinare svincolandomi dal fuoco. È un concetto di design, di flessibilità che voglio andare ai nostri utenti. Ecco, vi blocco un secondo perché abbiamo un'altra idea da Luca della provincia di Pistoia. Buongiorno. Sì, buongiorno a voi, grazie per aver chiamato. Mi dica. Allora, io ho questa necessità pratica, non so se esista o meno, ne parlavo anche con la mia compagna. Allora, tornando a casa vorrei trovare l'acqua della pasta già calda e magari con un sistema in cui anche la pasta è già caduta dentro, quindi avendo degli orari ben precisi, quindi una programmazione oraria con un sistema in cui mettendo la mattina acqua e la pasta... E possa trovarla già diciamo in cottura. È stato chiarissimo. Cioè lei arriva e ha tutto alla pasta asciutta, deve siccome, solo mangiarla. Giusto, devo solo mangiarla. E siccome arrivo sempre più o meno alla stessa ora, se è pronta mi risparmio un sacco di tempo e di rotture. Borga. Dottoressa, allora, dunque, è carina questa, certo, non è male. Beh, abbiamo visto che la soluzione, per esempio, sul caffè è stata trovata, no? È una questione di timers, no? Non lo so, cioè ci spieghi sul caffè. Sul caffè, sulle macchine del caffè, semplicemente si imposta il tempo e ci sono dei sistemi che caricano l'acqua, evidentemente bisognerà aver almeno predisposto il caffè. Allora, per la pasta ci sono... due tipi di soluzione. Una soluzione che diciamo è già affermata sul mercato ed è la cottura a induzione, che accorcia i tempi di bollitura dell'acqua, sì. ebollizione, scusate, ma dicevo qualche volta mi manca la parola, di ebollizione, perché si arriva a dividere il tempo di ebollizione proprio per l'alta efficienza dei piani induzioni per 10, no? In un minuto si arriva a far bollire l'acqua. 10. Esatto, cioè 1 a 10. Questa è una soluzione. Le altre evidentemente sono soluzioni per la pasta è un po' più difficile, per cibi che possono essere cotti in forno sono quelle soluzioni di cui parlavo prima, in cui si predispone, si può mettere tutto nel forno, poi gli si dà un comando come facciamo per le lavatrici, no? Con la partenza più tardi per massimizzare per esempio gli orari, il risparmio energetico, si fa la stessa cosa nei forni avendo predisposto qual è la cottura desiderata. La pasta per la cottura al dente forse è un pochino più delicata. Abbiamo in collegamento Igor da Vicenza, buongiorno. Buongiorno, salve, grazie di aver chiamato. Niente, io grazie volevo fare una piccola osservazione, perché noto sempre che quando si parla di elettrodomestici, diciamo così, il ragionamento è sempre nell'elettrodomestico singolare, insomma nel singolo elettrodomestico. Io adesso che mi sto per sposare sto un po' bazzicando guardando le cucine e non trovo una pianta fissa dove che sia gli elettrodomestici o anche i costruttori di cucine, che molte volte hanno le convenzioni di marca, insomma, mi danno una soluzione molto utile per la loro collocazione e per il loro utilizzo. Cioè si parla di un frigorifero che fa cose particolari, però poi vedo che ad esempio è molto difficile usarlo, perché vedo queste cucine coi pensi che mi cascano addosso o quant'altro. Insomma, se c'era una pianificazione tipo standard di una cucina, cioè lei parla delle dimensioni, quindi dell'elettrodomestico. No, ma guardi, le cose non sono tanto legate alle dimensioni, perché molte volte una cucina molto pratica non è una cucina grande, certo, capisce? Quindi se c'è anche una ricerca sulla posizione degli elettrodomestici. Grazie, adesso chiediamo subito al Indesit Mencarini, la posizione degli elettrodomestici. Più che di una posizione di elettrodomestici, noi stiamo studiando e ricercando per quello che riguarda la facilità d'uso dell'elettrodomestico, quindi una posizione ergonomica o un layout ergonomico dell'elettrodomestico. È vero che ad esempio un frigorifero molto spesso potrebbe rappresentare anche una vera e propria barriera architettonica. Se pensiamo a quello che può voler dire avvicinarsi a un frigorifero con una carrozzina, stando su una carrozzella, è veramente complicato. Noi stiamo studiando ad esempio frigoriferi che abbiano un layout diverso, che possano consentire una fruibilità, ecco, però, da questo punto di vista. Forse ho intuito il problema dell'ascoltatore, che è reale. Effettivamente, quando se voglio comprare un nuovo elettrodomestico, non so mai dove metterlo, cioè anche da un punto di vista di posizione, perché tutte le cucine poi funzionano con il bancone, poi ci sono le mensole. Oppure lo devo inserire in uno spazio predefinito, no? Certo. E quindi devo misurare, devo andare dal negozio con il qui centimetro. Però ci sono, no? Delle standardizzazioni abbastanza elevate, per cui ad esempio è un po' il cuciniere qui che fa da guida, per cui ci obbliga, tra virgolette, a produrre elettrodomestici che vadano incassati in un certo punto. Ah, quindi è la cucina che comanda. La standardizzazione viene determinata dal design della cucina, più che dal design dell'elettrodomestico. Noi all'interno di questi margini cerchiamo di operare pensando a elettrodomestici che poi collaborino ad esempio fra di loro anche. No, però c'è l'ascoltatore di prima, al di là della posizione, no, diceva una cosa che io ho sempre trovato importante, cioè le case costruttrici di elettrodomestici ci hanno riempito di cose potenziali, no? È un po' tutto il discorso dell'elettronica, forse tu Luca ci puoi aiutare, no? Ma sono sempre state complicazioni, funzioni aggiuntive, e siamo arrivati al punto di non ritorno, al punto di rottura della complicazione, no? Quando l'elettronica, il digitale, i tasti ti complicano la vita e non te la risolvono. Ecco, cioè, siamo arrivati davvero al punto di rottura? Stiamo pensando a un bottone che faccia tutto? Allora, intanto dal punto di vista di standardizzazione in Europa siamo molto fortunati, perché come diceva il dottor Mencarini, quando ha un piano cottura è 60 o 90 o 75. Quindi c'è una grossa facilità a sostituire l'elettrodomestico. Negli Stati Uniti, per esempio, noi come Whirlpool stiamo introducendo qualcosa di rivoluzionario, perché vogliamo introdurre un forno che entra, avendo la più grossa cavità, entra in qualsiasi nicchia adottata per i forni, che tutte, dipendendo dai fornitori, hanno delle dimensioni diverse. Quindi in Europa questo problema di scelta di possibile elettrodomestico è inferiore agli Stati Uniti. È molto semplificato. Ma perché negli Stati Uniti è diverso? Questo non mi è chiaro. Diciamo che è un'industria che è nata, che è stata meno standardizzata, anche perché questo mercato dell'incasso è un mercato molto più di nicchia che non il mercato europeo. In Europa abbiamo essenzialmente un mercato a incasso, mentre negli Stati Uniti è essenzialmente un mercato a posa libera. Moltissime le telefonate, abbiamo Jacopo dalla provincia di Siena, buongiorno. Sì, buongiorno, ma io volevo chiedere una cosa, probabilmente non so se esista già, ma ho visto che d'estate specialmente la gente quando apre il frigorifero perde tanto tempo a cercare qualcosa dentro, a decidere che prendere, ma non si potrebbe avere un monitor esterno, così uno sa già dove si trova la cosa e non lascia riscaldare il frigo così? Mencarini. Noi stiamo internamente a Indesit lavorando su tecnologie che rendano trasparenti la porta, ad esempio la porta di vetro con un LCD, praticamente una porta tutta LCD può essere resa trasparente per vedere all'interno quello che c'è. Per andare molto meno sul tecnologico, invece abbiamo in produzione un frigorifero che ha un vano bibite che è accessibile dall'esterno, in modo che non necessariamente uno debba aprire tutta la porta, cosa che d'estate è molto utile. Sentiamo Whirlpool. E noi, sempre in questa logica di prodotti per le masse, abbiamo diverse soluzioni con dei multiporta, e una che ha vinto un award molto prestigioso, un premio molto prestigioso di design in Cina. Abbiamo Enrico da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Penso che sia la trasmissione giusta. Io ho una domanda che mi frulla in testa ormai da un annetto, che è quella: ma esiste in commercio un frigo che crea il sottovuoto? Nel senso, siccome i cibi si deteriorano con l'aria, se ci fosse un frigo che, non so, che dopo un quarto d'ora che è chiuso crea il sottovuoto, questi cibi si mantengono di più, dice. Ci vuole un bel motore, mi sembra di capire, Borra. Dunque, il sottovuoto, noi abbiamo una soluzione che abbiamo messo in commercio recentemente, che in realtà non crea il sottovuoto direttamente nel frigo, però c'è una nicchia a lato con la macchina che crea il sottovuoto, che ci permette di andare. Ma un sacco di energia per fare una cosa del genere. Creare il sottovuoto no. È una piccola estrazione d'aria. Se non ho capito male, c'è uno scomparto al di fuori del frigo, dove lì metto il prosciutto e lui me lo tiene sottovuoto. Mi crea il sottovuoto. Io poi lo posso mettere perfino nel congelatore. E poi abbiamo un sistema che viene utilizzato nei ristoranti di alto livello, un sistema di cottura che permette di prendere questa busta e di rivitalizzare il cibo che c'è dentro in un programma speciale, diciamo, per semplificarlo, di un forno. Ma io il prosciutto gli chiedo di metterlo sottovuoto al salumiere, oppure lo prendo e mi crea sottovuoto il frigorifero? Lei lo può prendere fresco dal salumiere, mangiare una fetta e poi la sera dire adesso lo metto nel sottovuoto. È chiarissimo. Va bene. Tutto questo, però io, Luca, cioè non ho ancora capito, è tutto fantasmagorico, ma non è che poi alla fine io non ci capisco niente? Cioè, torniamo al tasto unico e alla semplificazione dell'utilizzazione di questi elettrodomestici. Cioè, io non so bene qual è il target. Tu mi stai dicendo che tu sei traumatizzato davanti alla lavatrice ti spaventa. No, aspetta, però è anche un po' scientifico in questo senso. Siccome ormai è un mercato di sostituzione, quello degli elettrodomestici, e cioè non c'è un'innovazione che la gente non c'ha il frigorifero, cambia il frigorifero vecchio e ne prende uno nuovo e ha vecchie abitudini di utilizzazione. Non so, anche prima abbiamo sentito un ascoltatore, si sta sposando, è giovane, ma c'è anche un target di persone anziane che è in oggettiva difficoltà. Il microonde ha avuto oggettive difficoltà di affermazione perché era complicato e rompeva vecchie abitudini di acquisto. È vero o non è vero? Quindi concludo così, cioè l'utilizzazione, la facilità di utilizzazione è centrale nell'innovazione degli elettrodomestici, altrimenti non si capisce più niente. Allora, Mencarini, ci spieghi un po' cosa stiamo facendo per andare nella utilizzazione. Prima lo accennava. Il problema che dice lei è un problema che è sorto nel momento in cui l'elettronica è entrata in modo preponderante nel mondo dell'elettrodomestico, e per cui molto spesso l'utilizzo è diventato anche, è vero, difficile e anche frustrante a volte. Quello su cui stiamo lavorando è la possibilità di dare molta delega al prodotto che possa riconoscere quello che è l'intenzione che noi esprimiamo mandando un comando. Quindi avere la possibilità di fare tutto con un tasto o con pochissimi tasti, in modo che la lavatrice, ad esempio, riconosca, e questo lo abbiamo già praticamente in produzione, riconosca la tipologia di carico e la quantità di carico che c'è al suo interno, e che possa dosare in piena autonomia anche il detersivo che viene inserito, che è ottimo per quello. Sulle lavatrici, una delle domande che emergeva era se c'è la lavatrice che legge l'etichetta, cioè che capisce già... Non ancora, a breve ci saranno quelli che, di cui parlavo prima, cioè gli smart tag, quindi etichette intelligenti che saranno a bordo del capo di tessuto e che la lavatrice leggerà e che potrà quindi adattare il ciclo di lavaggio in funzione di quello che poi è all'interno. La cosa che eviterà ad esempio sarà quello del calzino spaiato, ci ricorderà che ne abbiamo inserito uno solo invece che due. Quello del calzino spaiato è un dramma. Riconosce anche le differenze di sfumatura di colore, No, essendo io daltonico, no, non riesce a farlo. Quindi capito, tutta la Indesit è daltonica. Sì. L'innovazione dell'Indesit è daltonica. Allora, Barbara da Milano, buongiorno. Buongiorno a tutti, complimenti per la trasmissione. Io ho una domanda sulla cucina globale come risparmio energetico, come forse diceva l'ascoltatore di prima sulla pianificazione. Io nella mia cucina ho un motore per riscaldare il forno, un motore per riscaldare l'acqua. Ho diversi elettrodomestici, ognuno con dei motori, ognuno con una presa di corrente e lo scaldabagno per l'acqua. Ma non è possibile pensare a un blocco unico con un solo motore, un solo ingresso di corrente, che ne so, il calore del forno che riscalda l'acqua della lavastoviglie, tutto collegato al mio scaldabagno? Grazie, esattamente la domanda che volevo fare io. Anche perché, dottoressa Bora, poi se usi due o tre elettrodomestici insieme salta la luce, Assolutamente, al di là di saltare la luce, però la signora potrebbe lavorare come nostra consulente nel progetto Green Kitchen, perché ha assolutamente ragione, questa è la visione che noi abbiamo realizzata in parte già. Noi sappiamo che la sostenibilità dal punto di vista di risparmio di energia è uno dei temi fondamentali sicuramente per Whirlpool, ma direi per tutta l'industria. Allora, se lavoriamo solo sull'efficacia del singolo elettrodomestico, possiamo migliorare, però di nuovo possiamo salvare dell'acqua se parliamo di lavatrice, possiamo salvare dell'energia se raccorciamo i cicli, però possiamo solo fare una parte del cammino. Invece possiamo fare tanto se cominciamo a lavorare sull'interazione degli elettrodomestici. Diamo un esempio che è contenuto nel nostro approccio Green Kitchen, che è quello di dire quando noi laviamo o sciacquiamo le cose nei lavandini, una grossa parte dell'acqua, soprattutto alla fine del processo di lavaggio di qualsiasi cosa, che sia verdura, frutta, eccetera, è acqua pulita. Quest'acqua, anziché buttarla via, la possiamo stoccare e utilizzare, per esempio, per il primo ciclo di lavaggio del lavastoviglie. Altro esempio, il calore emesso dal frigorifero può essere utilizzato per preriscaldare l'acqua che va, per esempio, questo però lavatrici. Significa che uno si fa si progetta una cucina in maniera sistemica, cioè tutto insieme, non è che prende pezzi che poi si vanno ad aggiungere. Assolutamente, cioè bisogna pensarlo come anche tutta qualsiasi problematica dal punto di vista dell'environment deve essere pensata prima della produzione, in modo tale che si crei questa interazione nelle case. Abbiamo un'altra telefonata, Feliciano da Treviso, buongiorno. Buongiorno a tutti quanti. Allora, io sono proprietario, contitolare di un'azienda di progettazione, di arredamenti a livello industriale e privato, e volevo nello specifico rispondere a quel vostro ascoltatore che si doveva sposare sulla disposizione degli elettrodomestici nella cucina. Esiste un sistema per disporre gli elettrodomestici funzionale, ed è tra l'altro è stata un'azienda di Pordenone a farne una gran campagna pubblicitaria. Ed è il famoso conservazione, preparazione e cottura. Questa cioè? È praticamente la conservazione è il frigorifero, la preparazione è il lavandino, è il piano top dove si preparano i cibi e poi si passa alla cottura. Quindi la disposizione di queste tre zone di lavoro nell'ambito della cucina deve essere strategica in funzione di non far chilometri. Per esempio, ho visto moltissime cucine che hanno la zona cottura e il lavello opposti, quindi uno con la pasta deve girarsi tutta la cucina e l'acqua bollente per andare a quindi c'è un disegno della cucina più intelligente, mettiamo così? Che ci sono degli studi con i quali si applicano dei criteri di utilizzo di queste zone in modo tale che queste zone siano ergonomiche per le funzioni. Ecco, Feliciano, mi scrivi una mail che poi vediamo di fare un ragionamento magari per una prossima puntata su novalab@radio24.it. Guardi, non ho modo di scrivere niente in questo momento, quindi guarderò nel sito, cercherò l'indirizzo e ti manderò una mail. Grazie. Comunque, Prego. Grazie. Buon proseguimento. Abbiamo 2 minuti ancora. Io vorrei capire una cosa mia personale, anzi mi dicono 1 minuto, per cui insomma dobbiamo anche arrivare prima. Ma l'elettrodomestico, dobbiamo essere rapidissimi, quello, la killer, si dice in informatica la killer application, cioè quello che cambia, che entra nella cucina, la cucina non sarà mai più come era prima. Indesit. La killer application secondo me sarà assolutamente l'applicazione delle etichette intelligenti sul cibo, che poi consentirà di leggere e trattare tutto quello che sta all'interno del frigorifero piuttosto che del forno e la lavatrice, di trattarlo in piena autonomia. L'altra killer application dal punto di vista dell'interazione sarà sicuramente, secondo me, quella che oggi viene chiamata la gestural interface, cioè azionare Minority report, insomma. Assolutamente sì. Bora. Interazione degli elettrodomestici per arrivare al migliore equilibrio tra prestazioni e conservazione dell'energia e bilancio energetico alla fine della vita del prodotto, quindi includendo il recycling. Da questa cosa abbiamo capito le differenze tra Whirlpool, che abbiamo imparato a dirlo, questa è la vera notizia, dopo Whirlpool. 30 minuti di trasmissione siamo anche Mangiaterra è arrivato a dirlo. 102 minuti è un film con le pubblicità. È questo il tempo che passiamo in media davanti a internet. Sono 23 milioni i navigatori italiani di internet, il 43% della popolazione nazionale. Dedicano mediamente 52 ore mensili. È il dato Nielsen riportato allo Yab Forum a Milano. Negli ultimi 3 anni, spiega una nota di Yab Italia, l'organizzazione che raccoglie gli operatori della pubblicità online, è cresciuta dell'8% la fascia di navigatori tra i 35 e i 54 anni di età e del 4,5% quella delle donne. Da internet al digitale terrestre. Al 31 dicembre 2009, il 62% delle famiglie italiane, circa 36 milioni di individui, sarà in possesso di un ricevitore per la TV digitale terrestre. La stima è di DigiTV, il consorzio dei broadcaster coinvolti nel passaggio alla nuova tecnologia. Dal CNR, la bicicletta all'idrogeno. Parliamo di una 2 ruote super ecologica che, oltre alla pedalata, consente di alimentare a idrogeno la trazione. La bicicletta, sostengono i ricercatori, è alimentata totalmente ad idrogeno con un sistema di accumulo a stato solido in grado di fornire un'autonomia elettrica di 150 km. Un pieno costa circa 18 euro per una spesa di circa 12 centesimi a chilometro. Bentornati, domani è giovedì, domani esce Nova, tema africano bellissimo. Sì, direi usciamo dalle mura di casa. La ci voce spostiamo... è di Angelo Soldavini, vice caporedattore della redazione. Ma ormai gli ascoltatori un po' mi conoscono. Questo appuntamento settimanale ho un mio pubblico che si accende per l'occasione. No, dicevo, usciamo dalle mura di casa e ci spostiamo in Africa. Andiamo a fare un viaggio in Africa che appare lontana, ma poi così lontana non è. L'occasione è un accordo di partnership tra Europa e Africa per quanto riguarda la ricerca, che un po' cambia la prospettiva, nel senso che per la prima volta l'Africa stessa chiede non più, diciamo, donazioni o opere finite, ma un investimento in ricerca, in conoscenza, cosa che a noi di Nova piace molto. Fa molto piacere. E soprattutto appunto la logica della collaborazione, non più appunto della donazione. In tutto questo non dobbiamo dimenticare che noi siamo, diciamo, una portaerei nel Mediterraneo, e il Mediterraneo diventa sempre di più la piattaforma tecnologica e scientifica attraverso la rete internet per collegarsi con l'Africa. Quindi diciamo è lontana ma sempre più vicina, perché ci offre anche delle opportunità di scambio culturale, scientifico, di ricerca, e nel paginone raccontiamo una serie di ricerche e di ricercatori africani che stanno lavorando su temi che sono assolutamente importanti per loro, ma che potrebbero diventarlo per tutti. Sì, perché tra l'altro l'apporto dell'Africa ai paesi sviluppati, i cosiddetti sviluppati, è sempre più interessante. Lo vediamo anche sui telefonini. Cioè, anche. Ma soprattutto per i temi, un esempio per tutti, una ricerca che sta lavorando sugli OGM e sulla modifica diciamo, genetica naturale delle piante per renderle resistenti alla siccità, che ovviamente per loro è un problema, ma potrebbe diventare un'occasione per tutti. Clima Docet. Noi ringraziamo Pierangelo Soldavini, ringraziamo Barbara Borra di Whirlpool e Adriano Mencarini di Indesit e soprattutto Sandro Mangiaterra. Grazie a tutti e alla settimana prossima. A domani.